Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Personaggio di Pellegrino Artusi, già protagonista 5 anni fa del romanzo Odore di chiuso, e torna nel romanzo Il borghese Pellegrino, scritto sempre da Marco Malvaldi, pubblicato da Sellerio. È una versione particolare, naturalmente, di Artusi, che siamo abituati a conoscere come il padre della cucina italiana, autore di La scienza in cucina e L'arte di mangiar bene, perché nei romanzi di Malvaldi Artusi diventa sostanzialmente un investigatore per caso, grazie alle sue conoscenze scientifiche legate alla cucina. Allora, Malvaldi, partiamo dalla fine. Lo so, in un giallo non si dovrebbe mai partire dalla fine, ma giuro che non svelo nulla, perché parto dai ringraziamenti, dove tu precisi sostanzialmente che avevi pensato di fare un commentario ragionato al libro di ricette di Pellegrino Artusi. L'hai detto a tua moglie e lei che cosa ti ha risposto? Che palle! È stata esattamente questa la risposta. Cioè, fondamentalmente, la mia tentazione era quella di scrivere un giallo, però avevo paura di tornare sugli stessi territori di Odore di chiuso, perché lo considero il mio libro migliore. Per cui, cosa avevo fatto? Avendo voglia di ricominciare a frequentare il personaggio Pellegrino Artusi, che dà tanta soddisfazione intellettuale, avevo detto, perché non scrivere un bel commentario appunto sulle ricette dell'Artusi, un qualcosa che faccia vedere quanta cultura so e quanto sono bravo. E dopodiché appunto mi è toccato essere sincero, questo sarebbe stato un libro che avrebbe dato soddisfazione probabilmente a me, però non so a quante altre persone, ecco, per cui ci è toccato scrivere un romanzo. Ecco, diciamo anche perché hai deciso di far diventare Artusi un investigatore per caso. Com'era nata l'idea prima ancora di scrivere Odore di chiuso? Beh, l'idea era nata perché dopo 3 romanzi con i vecchietti io avevo voglia di scrivere un romanzo ottocentesco, un vero e proprio giallo ambientato nel periodo in cui nascono e diventano gloriosi gialli, il periodo positivista, la fine dell'Ottocento, la fede cieca nella ragione umana. E quindi volevo scrivere un giallo con tutti i canoni, gli ingredienti dei gialli classici, quindi il castello, la brughiera, la servitù, la nobiltà. Un giallo del genere chiaramente si ambienta in Inghilterra, o almeno così avevo pensato, però lì l'editore, sempre Sellerio, è stato tranchant, mi ha detto no, guarda, si scrive di quello che si sa, mi va bene l'Ottocento ma resta in Italia. Io a quel punto oppongo la mia carta forte, dico guarda che io volevo scrivere un apocrifo umoristico. Il giallo in teoria all'inizio si intitolava 3 uomini a caccia, più ovviamente un cane, perché doveva essere un apocrifo di Jerome Klapka Jerome. E Antonio mi dice ma non c'è problema, scusami, trova un grande autore italiano risorgimentale con un grande sense of humor. E io mi sento mancare, come si diceva fino all'Ottocento. Perché non sei riuscito a trovarlo sostanzialmente. Ma manco mezzo, anzi ne ho trovato a un certo punto uno tutto intero, e che interezza, ho trovato proprio Pellegrino Artusi da Forlì in Popoli, perché quest'uomo a un certo punto nel suo ricettario di cucina avverte, dice, i cavoli tutti, siano essi gialli, rossi, verdi o bianchi, sono tutti figliuoli di Eolo, il dio dei venti. E prosegue raccomandando di non cucinarli a una cena elegante. Beh, è chiaro, a quel punto ho telefonato a Antonio e ho detto trovato Pellegrino Artusi da Forlì in Popoli. Hai capito che insomma era anche un autore ironico, era veramente un uomo da una grandissima cultura non solo scientifica e culinaria ma proprio a 360 gradi, e aveva anche una certa ironia. Esattamente, non si vergognava di tirarla fuori. L'epoca positivista era un'epoca nella quale non si poteva scherzare praticamente su niente, figuriamoci sulla scienza o sulla letteratura, sarebbe apparso disdicevole e poco commendevole assolutamente da Buzzurri. E invece Pellegrino Artusi su queste cose scherzava, poteva permettersi di scherzare perché non era un erudito, un cattedratico, una persona che traeva il proprio sostentamento da pratica di queste cose, era sostanzialmente una persona che aveva studiato per conto suo. Quindi quando scrive il ricettario lo scrive esattamente come si parla, con aneddoti, con storielle, con consigli, e con sincerità, con la sincerità di chi mette le dosi, di chi specifica i tempi di cottura, di chi sa che chiunque può cucinare, per dirla, con Auguste Gousteau, il cuoco artefice di Ratatouille. Esattamente, anche quello è un mito, insomma, a modo suo. Senti, ma è vero che proprio la trama gialla, poi ci arriveremo, ma insomma si sa che dei gialli non è che si possa parlare tantissimo, soprattutto della trama, ma è vero che la trama di Il Borghese Pellegrino ti è stata ispirata proprio leggendo un'autobiografia di Artusi, cioè ti ha dato anche il là del giallo? Esattamente. A un certo punto l'Artusi, narrando la sua vita, ricorda alcuni episodi della propria gioventù, e nel ricordare quegli episodi inconsapevolmente e senza parlare dell'uccisione di alcun essere umano, dice un qualcosa che a me ha fatto esultare. Mi sono reso conto che quella stessa informazione, se usata nel posto giusto, al momento giusto e con la giusta tempistica, poteva risultare nel delitto perfetto. Ecco, allora veniamo a qualche elemento di trama di Il Borghese Pellegrino. Questo è proprio un delitto dalla camera chiusa, insomma, come succedeva un po' nei romanzi di Agatha Christie, perché tra l'altro tutti i personaggi sono riuniti in un castello, uno muore, lo possiamo dire, magari non diciamo chi, però ci scappa il morto e sicuramente il potenziale assassino sarà uno dei presenti al castello. E Artusi appunto darà il suo contributo di investigatore al famosissimo, ormai diventato anche lui famoso, delegato di polizia artistico, e anche al Paolo Mantegazza, che è sempre presente, un filosofo, antropologo, darwiniano, insomma è l'uomo di scienza. Siamo nell'ottobre del 1900, periodo in cui l'impero ottomano, all'epoca si chiamava così, è in grande crisi economica, un debito pubblico altissimo che è stato sostanzialmente comprato dai paesi occidentali. Allora, c'è questo secondo Gazzolo, che è produttore di carne in scatola, che vuole fare affari in Turchia, e invita al castello una serie di personaggi. C'è il presidente del consiglio d'amministrazione del debito pubblico turco, D'Ancona, che usa i piccioni viaggiatori, c'è il suo collaboratore turco Kemal, poi c'è un banchiere Corrado Viterbo, c'è poi il ragionier Bonci con la figlia bellissima, stupenda Delia, e poi appunto ci sono Artusi, Mantegazza, ovviamente c'è il maggiordomo Bartolomeo, non manca mai in questi casi, la cameriera Crocetta e così via. Che tipo di relazione c'è fra tutti questi personaggi? Beh, ci sono due tipi di relazioni, uno palese e uno implicito. Quello palese è che tutti vogliono fare affari con l'impero ottomano, che appunto all'epoca aveva fatto default e quindi era intervenuta la Troica, solo che all'epoca nella Troica c'eravamo noi, anzi noi eravamo a capo della Troica. A capo noi italiani. Eravamo il presidente del CADPO, del Consiglio d'amministrazione, è sempre stato un italiano dal 1870 in poi. Ce n'è poi una implicita, che è quella, la volontà da parte di molti di mantenere lo status quo. E questa era una società nella quale, diciamo, si viveva bene. Si viveva talmente bene che ogni possibile cambiamento era visto con sospetto, perché poteva mutare un equilibrio che tutto sommato alla maggior parte delle persone stava bene. E quindi si cercava disperatamente, uso una frase così che mi viene in mente, non so perché, di cambiare tutto a ciò che tutto rimanesse com'era. Quindi si incominciano a fare affari con gli ottomani in modo tale da mantenere bene questa separazione, al tempo stesso diciamo cambiare le armi della guerra. Europa e Impero Ottomano sono sempre state in guerra l'uno contro l'altro. Fino a quel momento erano state in guerra con i cannoni, da quel momento in poi la guerra si combatte a colpi di carte e le armi più potenti le avevamo noi. Insomma, gli italiani cercano sostanzialmente di fare affari con i turchi proprio perché hanno in mano il debito pubblico, cioè è una terra di conquista economica. Esattamente, e non solo economica, perché la Turchia verrà conquistata piano piano anche culturalmente. Non manca molto da quando un signore, che si chiama anche lui Reza Kemal, ma che diciamo si prenderà il nome di Atatürk, fondamentalmente europeizzerà la Turchia. Marco Malvaldi, nei tuoi romanzi c'è sempre una grande ironia. In questo romanzo c'è un personaggio che è la moglie di Secondo Gazzolo, quello che ospita, insomma, tutte queste persone, che a un certo punto dice: gli uomini non hanno senso dell'umorismo, almeno non quando si parla di loro. È vero questo? Sì, è verissimo, è verissimo. E una delle caratteristiche, secondo me, che veramente distingue l'uomo dalla donna è l'inerzia dell'interruttore parlo-ascolto. Ci sono uomini estremamente taciturni che però una volta messa la manopola diciamo, l'interruttore su parlo, trovano molta difficoltà a metterla su ascolto, come se fosse arrugginita, ecco. E questo si riflette principalmente, secondo me, sulle capacità di capire quando si viene anche bonariamente, anche affettuosamente presi in giro. Io conosco molte, molte persone che non sono in grado di capire quando li si sfotte. Chiaramente me escluso, io lo capisco sempre, per carità di Dio. Il fatto è che la capacità di essere, di capire quando ti prendono in giro richiede un certo distacco, richiede la capacità di ascoltare e come se non si fosse coinvolti. E in questo, secondo me, le donne hanno una marcia in più. Se si parlasse, se si paragonassero i due generi alle automobili, diciamo che le donne sono Ferrari, mentre gli automobili, gli uomini sono macchine da chilometro lanciato. Finché devono andare diritti, prestazioni superbe, mostruose. Appena c'è una curva, occhio, perché ci si ribalta. Un'ultima curiosità al volo, Marco Malvaldi, la domanda è al chimico più che allo scrittore. A un certo punto un personaggio del tuo romanzo viene a contatto, cioè il suo corpo rimane immerso per parecchio tempo nell'alcol, nello champagne. E è vero che ci si può ubriacare così e la ciucca da assorbimento dura tantissimo? Assolutamente sì, assolutamente sì. Ci si può ubriacare perché il derma è in grado di assorbire l'alcol, che quindi entra in circolo e non avendo, diciamo, una via preferenziale verso il fegato, come è invece l'alcol che viene ingerito, la sua metabolizzazione è molto più lenta, perché piano piano l'alcol si scioglie nei grassi e nel tessuto connettivo, che come una spugna continua a rilasciare lentamente alcol nel nostro corpo e noi prendiamo una tronata incredibile. Quante cose si scoprono leggendo i libri di Marco Malvaldi. Allora, grazie appunto a Marco Malvaldi, ora in libreria con Il Borghese Pellegrino, pubblicato da Sellerio. Grazie Marco. Grazie a te. Una breve pausa e poi parleremo ancora di libri. È partita l'offerta pubblica di scambio di Intesa San Paolo sulle azioni UbiBanca. Fino al 28 luglio gli azionisti UbiBanca potranno ottenere 17 azioni Intesa San Paolo ogni 10 azioni UbiBanca, con un premio del 27,6% rispetto al valore di UbiBanca alla chiusura di borsa il giorno precedente il lancio dell'offerta. Il futuro oggi più che mai è di chi sa costruirlo insieme. Ecco perché crediamo in un'unione fondata su solidità patrimoniale, redditività e generazione di valore per azionisti, clienti, famiglie, imprese e dipendenti. Per maggiori informazioni visita il sito gruppo.intesasanpaolo.com o chiama il numero verde 800 595 471. Prima dell'adesione leggere attentamente il documento di offerta disponibile sul sito internet gruppo.intesasanpaolo.com o presso l'intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni. Il cacciatore di libri. Well, I sit down by the mountain. Cercando Virginia di Elisabetta Bricca, pubblicato da Garzanti, racconta una storia ambientata nel 1976 a Cortona, in Toscana. Emma, la protagonista, è una ragazza costretta dal padre a interrompere gli studi. Anche il fratello Settimio è proprio schiacciato da questa figura paterna autoritaria. Anche lui ama leggere, ma insomma il padre lo costringe ad occuparsi dei conti di famiglia, dell'azienda di famiglia. Questa, diciamo, è la premessa alla storia, che parte nel momento momento in cui Emma, lo possiamo dire perché accade veramente nelle primissime pagine del romanzo, subisce una violenza sessuale e il fratello, per salvarla, insomma, da quella situazione oppressiva in cui sicuramente il padre l'avrebbe anche incolpata della violenza subita, la porta da una signora inglese, la signora Dalloway, e la fa diventare, insomma, la sua donna di servizio. Già da questo nome, Mrs. Dalloway, si dovrebbe intuire che questo romanzo si rifà molto ai libri di Virginia Woolf, e ora vedremo in che modo. Elisabetta, partiamo dal personaggio di Emma. Come l'hai voluta disegnare questa tua protagonista? Dunque, Emma è all'inizio una ragazza giovanissima che comunque ha in sé qualcosa che la scuote, che è appunto questo istinto ribelle, ed è una ragazza che ama immensamente leggere. E lo fa grazie anche ai libri che il fratello le procura di nascosto. Quindi la lettura, il primo libro che legge è Una donna di Sibilla Leramo, e attraverso appunto la lettura di una donna lei si rende conto che può esistere un'altra vita rispetto a quella atroce che lei sta vivendo nella casa del padre. Quindi è una ragazza molto curiosa, una ragazza che vuole affermarsi, una ragazza anche ambiziosa, che ha questa grandissima sete di indipendenza e di libertà. Ecco, inizialmente lei ruba, diciamo così, i romanzi al fratello, i romanzi russi, ma non le piacciono moltissimo. No. Poi, insomma, trova il suo genere, si appassiona ad altri romanzi, però sicuramente la passione per la lettura e per i libri è qualcosa che la unisce ulteriormente a suo fratello. Sì, esattamente, infatti in un passo del libro proprio ne parlo di questo rapporto quasi simbiotico che lei ha con Settimio, che è suo fratello, perché per entrambi la lettura è un viaggio, è una fuga dalla realtà che vivono, ed è vivere vite diverse dalla loro, quindi è un vero e proprio viaggio per sfuggire alle violenze che subiscono, psicologiche e fisiche, che subiscono all'interno della famiglia. E così, dicevamo, Settimio, per salvare appunto sua sorella, la porta a servizio da questa signora Dalloway, appunto nel centro di Cortona, in un palazzo, sì, insomma, anche molto, molto aristocratico. Com'è il primo incontro fra la signora Dalloway ed Emma? È uno scontro in realtà, perché la signora Dalloway, che ama circondarsi di questi pappagallini che lascia liberi all'interno del suo studio, chiede proprio ad Emma di, se vuole tenerne una in mano. Emma rifiuta, anche abbastanza infastidita, perché risponde che non sono liberi. Quindi vede in questi pappagallini un po', si rivede in questi pappagallini, no? Vede in loro la mancanza della libertà che le è stata negata. Però è anche qualcosa che colpisce molto questa risposta alla signora Dalloway, non è una risposta banale, e da lì capisci che in quella ragazza c'è qualcosa di speciale, qualcosa che l'affascina. Infatti questa è una scena, diciamo, iniziale ma anche cruciale per il romanzo, perché la signora Dalloway capisce che in questa ragazza c'è forse un fuoco, lo stesso fuoco che lei aveva provato da giovane, perché la signora Dalloway noi la vediamo già, diciamo, ad una certa età, e sembra essere una donna autonoma, risolta. In realtà anche lei, poi lo si scopre naturalmente nel romanzo, ha un passato di costrizioni. Siamo comunque a metà degli anni 70 e comunque le donne vivevano ancora una situazione di grande costrizione, la stessa signora Dalloway. Sì, esattamente, cioè, diciamo che nella metà degli anni 70, in cui è ambientato il libro, comincia a esserci il grande movimento femminista, no? Le donne scendono in piazza, però in alcune zone, soprattutto rurali dell'Italia, insomma, esisteva ancora una mentalità patriarcale. La signora Dalloway, al contrario, comunque è una signora di origini aristocratiche, di conseguenza i ruoli imposti dalla famiglia lei li ha vissuti come dei veri e propri lacci, come delle vere e proprie imposizioni. Quindi ciò che accomuna Emma e la signora Dalloway è essenzialmente la libertà che è stata negata ad entrambe, e che entrambe cercano e hanno cercato di conquistare anche a caro prezzo. Ecco, il rapporto che si viene a creare fra Emma e la signora Dalloway è molto bello e molto intenso, perché è fatto di comprensione reciproca. La signora la invita ogni giovedì nella stanza nella quale non fa entrare nessun altro esponente della servitù, per leggere insieme, parlare dei libri. Quindi, insomma, si instaura un rapporto molto profondo, e in questo scenario avvengono tutta una serie di cose, per esempio, innanzitutto, quella della violenza sessuale che lei lei ha subito, che Emma ha subito, perché anche qui lo possiamo semplicemente accennare, ci sarà poi un processo nei confronti dello stupratore, che non era cosa frequentissima. Ricordiamo che nel 1976, e lo ricorda il fratello Settimio, la violenza sessuale era considerata ancora un reato contro la morale. Solo nel 1995 in Italia siamo arrivati a considerarlo un reato contro la persona. Quindi insomma, Emma a metà degli anni 70, nel momento in cui il femminismo insomma arriva in Italia, si trova ad affrontare un processo per stupro dove lei viene trasformata quasi nel colpevole. Esatto, sì. Tra l'altro io mi sono documentata per scrivere la scena del processo e ho proprio riguardato tutto il processo per stupro, il primo processo mandato in onda in diretta sulla Rai ad una ragazza di nome Fiorella. Il primissimo processo, l'avvocato difensore era la Tina Lagostena Bassi, che ha fatto la storia della difesa delle donne. Sì, in esattamente, una grandissima donna. E anche in questo processo la vittima diventa anche per bocca dell'accusa la provocatrice. Quindi si trasforma proprio non nella vittima ma nell'accusata. Perciò mi sono ispirata a questa vicenda proprio anche per descrivere nel libro il processo che deve affrontare Emma. Ma la stessa Franca Viola, ricordiamolo, no? Negli anni 60 anche lei comunque rifiutò di sposare il suo stupratore e dovette comunque affrontare un processo. Quindi non sono stati poi così rari i casi, no? Sono stati rari i casi di cui si è parlato, però ancora, come dicevi tu, appunto esisteva il cosiddetto matrimonio riparatore nel 76. Ecco, il matrimonio riparatore, che Emma, era un'aberrazione totale il matrimonio riparatore, adesso ci sembra veramente assurdo, ma nel 76 ancora esisteva per legge ed è un matrimonio appunto che Emma rifiuta. Quindi esatto. si capisce anche da questo insomma che ha una personalità forte. Lei vuole affermare i suoi diritti e vuole essere libera di essere quello che è. Lei non ama neanche le convenzioni sociali, magari le sue amiche cercano un fidanzato, un matrimonio di un certo tipo, lei no, però si trova ad affrontare anche problemi che le donne affrontavano in quel periodo. Per esempio mi riferisco al fatto che la sua amica Matilde deve abortire e all'epoca si abortiva dalle mammane. Anche in questo caso tu hai affrontato un altro tema delicatissimo delle donne in Italia. Sì, esattamente. Ma sai, Alessandra, io comunque ho ascoltato, per scrivere questo libro, ho ascoltato tante storie di donne che hanno vissuto sulla propria pelle queste esperienze e sembra quasi anacronistico parlarne oggi. In realtà sono comunque fatti successi non tantissimi anni fa, no? La storia è fatta di secoli, se ci pensiamo. Quindi sì, anche l'aborto era illegale, quindi queste donne che rimanevano incinte e che non desideravano un bambino dovevano rivolgersi a loro, ed era anche molto pericoloso perché molte proprio morivano. Ecco, questo romanzo si intitola Cercando Virginia perché è quasi anche una ricerca su Virginia Woolf, l'abbiamo detto, ad iniziare dal nome la signora Dalloway, che consiglia appunto ad Emma di leggere alcuni libri di Woolf, per esempio il famosissimo Una stanza tutta per sé, il famoso saggio che viene considerato un po' il pilastro del femminismo. Ecco, che cosa Emma trova nei libri di Virginia Woolf? Nei libri di Virginia Woolf Emma scopre un mondo che non conosceva, scopre che si può arrivare alla consapevolezza e soprattutto ci si può far valere prima come persona e poi come donna, perché noi prima di essere donne siamo degli esseri umani, siamo delle persone, esattamente come lo sono gli uomini. Quindi scopre la parità, scopre che può fare tutto ciò che vuole e che può aspirare a tutto ciò che vuole. Quindi le parole di Virginia sono un faro per lei. Grazie ad Elisabetta Bricca, ora in libreria con Cercando Virginia, pubblicato da Garzanti. Grazie Elisabetta. Grazie a te Alessandra, grazie. E anche per oggi è tutto. Vi ricordo che potete riascoltare in podcast queste e le altre puntate del Cacciatore di Libri su radio24.it. Siamo presenti sui social, su Facebook, la pagina ufficiale Il Cacciatore di Libri - Radio 24 e su Instagram come Cacciatore di Libri senza l'articolo Il. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.